Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giornata cruciale quella che si giocherà in campionato tra sabato e domenica, non decisiva, su questo sono quasi tutti d'accordo perché Milan-Inter è il primo di quattro confronti diretti tra le quattro squadre che sono rimaste a lottare per il titolo. Seguiranno poi Napoli-Udinese alla metà di aprile e alla penultima e ultima giornata rispettivamente Napoli-Inter e Udinese-Milan, però una giornata cruciale, questo sì. Sono appena uscite le designazioni arbitrali, Milan-Inter sarà diretta da Rizzoli, Roma-Juventus che a sua volta deciderà come minimo per l'Europa League, ma anche le ultime speranze della Roma di provare a rimontare verso la Champions. Roma-Juventus sarà Rocchi l'arbitro, mentre Napoli-Lazio, di nuovo decisiva per Scudetto e zona Champions, sarà affidata a Banti. Più tardi, questa giornata cruciale, questa lotta per il titolo, e soprattutto le quattro squadre realisticamente ancora in lizza, cioè nell'ordine Milan, Inter, Napoli e Udinese, su questa lotta Scudetto vedremo con l'aiuto di Marco Bellinazzo di metterla a fuoco in una chiave un po' particolare, cioè una chiave di bilanci, una chiave di fair play finanziario e quindi una chiave anche di prospettiva di investimenti economici, e credo potrebbero uscirne delle riflessioni ma anche dei numeri interessanti, ripeto, per la prospettiva di un equilibrio forse crescente per il nostro campionato, senza magari illudersi troppo. Per il momento restiamo all'attualità. E allora, una vigilia di derby vista per esempio dalla parte del Milan con Thiago Silva. Sono delle due squadre forti del campionato che hanno dell'attacco molto forte, che segna sempre. Sicuramente non è un gioco di 0-0, sicuramente c'è tanti gol per segnare Pato, anche tu, ma speriamo che solo Pato fa gol. Stefano scrive: visto che i politici dovrebbero darci buon esempio, propongo il DASPO per i parlamentari e la tessera del politico. Io ti aggiungerei anche l'esame antidoping, Stefano, spesso e volentieri, e non solo per casi recentissimi. Uno che il derby non lo giocherà, ma che avrebbe dato chissà cosa per guarire in tempo, anche se i suoi tempi di ripristino sono in netta accelerazione rispetto al previsto, e quindi Inzaghi. La forza dell'Inter la conosciamo tutti, però secondo me il Milan ha la grande consapevolezza di che se è davanti ha fatto meglio per ora ed è molto forte, per cui insomma l'Inter sappiamo che ha giocatori forti, ha un bel gruppo e non mollano mai, insomma l'Inter di questi anni lo conosciamo, però io sono convinto e ho visto grande convinzione nei miei compagni, nei tifosi, c'è una grande atmosfera, la sento. Purtroppo anch'io sabato dovrò fare il tifoso, però siamo tutti compatti e speriamo di vincerlo. Lo dovesse vincere il Milan, allora decisivo abbiamo detto probabilmente in nessun caso, però è ovvio che lo dovesse vincere il Milan, sarebbe un segnale più forte rispetto al contrario, nel senso che già il Milan è in testa, già 2 punti di vantaggio sull'Inter e 3 sul Napoli. E quindi evidentemente questo sarebbe il verdetto che, senza chiudere il campionato, ma comunque lo orienterebbe in maniera più netta. La cabala suggerisce che il segno X in un derby milanese non esce dal 2003, non esce dalla bellezza di 15 partite, e quindi insomma, diciamo che il calcolo delle probabilità, oltre che un sostanziale potenziale equilibrio, potrebbe suggerire questa soluzione, che non è certamente un obiettivo di partenza per nessuna delle due, ma ripeto, quando la cabala ci si mette poi spesso e volentieri le cose vanno in quel senso. C'è un filmato che circola, ma insomma anche un contributo vocale che arriva dalla televisione del Camerun e che documenta un episodio di cui hanno parlato i giornali stamane, che riguarda Eto'o, che ha avuto uno scontro abbastanza duro con un giornalista camerunense subito dopo la sconfitta del Camerun nell'amichevole dell'altro giorno con il Senegal. E allora ne sentiamo un breve frammento, perché Eto'o ha usato toni molto civili ma parole insolitamente dure. Sentiamo. Je parlerai a votre patron d'Equinox parce que vous ne méritez même pas à travailler pour cette merveilleuse chaîne. je verrai avec lui. Et je vais vous dire, j'ai 30 ans, j'ai tout gagné dans ma carrière, je n'ai que la Coupe du Monde qui manque, j'ai tout gagné dans la carrière, et jusqu'à présent, j'essaie de représenter valablement l'Afrique, le Cameroun, là où je joue. Et des gens comme vous, vous ne méritez pas d'esister. Dunque, della gente come voi, cioè uno come lei non merita di esistere, ha detto Eto'o testualmente nell'ultima frase a questo giornalista camerunense, che aveva probabilmente fatto, a quello che poi si è ricostruito, una domanda un po' aggressiva a Eto'o sull'impegno suo e sull'impegno dei suoi compagni di squadra in questa amichevole, ripeto, con il Camerun. Io credo che Eto'o abbia usato i giusti toni appassionati quando ha ricordato di essere un simbolo del Camerun, quando ha ricordato di avere 30 anni, di essere un giocatore di un certo calibro, una certa dimensione, il cui impegno non può mai essere in discussione. Certo, dicendo all'inizio, conosco il patron della sua televisione e gli parlerò di lei, e alla fine ha detto lei non merita di esistere, insomma, diciamo che quando due o tre settimane, no, un mesetto fa si era fatto levare la multa dalla vigilessa di Milano per il SUV parcheggiato sul marciapiede, era stato più morbido, ecco. Oggi mi pare si sia lasciato andare un pochino di più. Cominciamo a introdurre l'argomento da cui partiremo con Marco Bellinazzo subito dopo l'intervallo, e sentiamo che cosa pensa Falcao, e quindi un nome storico per la Roma giallorossa, che cosa pensa Falcao della nuova Roma? Secondo me bisogna sempre tenere conto che la Roma è una squadra, una società che è diventata grande anche in Europa. I nuovi proprietari che arrivano, si riesce a concludermi algo che si possa pensare e di fare delle grandi cose, perché Roma sicuramente è una città che merita avere una squadra a livello europeo. È difficile, i consigli sono difficili, no? Perché dipende, secondo me bisogna cercare di pensare bene, con calma, senza essere lento, no? Bisogna avere la velocità ideale, anche perché siamo già ad aprile praticamente, bisogna già cercare di fare una squadra forte, perché sicuramente tutte le altre già stanno rinforzate. Già, e questo però dipende da tanti fattori, e lo slittamento della firma contrattuale alla metà di aprile, stiamo sempre parlando della migliore delle ipotesi, certamente non depone granché a favore di questa fretta che invocava Falcao. A proposito di Roma-Juve, comunque uno straclassico del campionato, stamane si è fermato Del Piero in allenamento per un forte risentimento muscolare, leggo, all'adduttore sinistro, e quindi è probabile a questo punto che dopo Chiellini anche Del Piero debba saltare la sfida dell'Olimpico Romano. Primo intervallo di oggi, strade e autostrade. Bentornato dunque a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Dunque, partiamo dalla Roma, anche se poi arriviamo, perché il clou di questa puntata mi pare che sia l'altro, e cioè l'ho già anticipato ma lo ripeto. Questa volata a 4 per lo scudetto, vista dal punto di vista dei bilanci, del fair play finanziario, delle prospettive dunque per questi 4 club, però è indubbiamente d'attualità la questione Roma. Questo zio d'America qualche perplessità l'ha destata, ha causato anche qualche, non dico litigio vero e proprio, abbiamo sentito prima quello di Eto'o che era leggermente diverso, ma insomma qualche punto di vista diverso tra testate, tra quotidiani. Per esempio è di stamane la notizia, insomma, che i legali di Thomas Di Benedetto non siano particolarmente felici del trattamento riservato loro dal Sole 24 Ore. Beh, ieri i due colleghi Dragoni e Gatti hanno svolto il loro lavoro cercando di capirci qualcosa in più. Noi è da un po' di settimane, se non di mesi, che abbiamo acceso un faro, per quel che ci compete, ovviamente sulla storia di Thomas Di Benedetto e della cordata americana, e oggi arriviamo un po' di corsa, appunto perché fino all'ultimo momento abbiamo cercato di raccogliere le notizie. Si parla appunto di un Di Benedetto che entra e esce dagli studi legali e si aggira per Roma con con tutte le aspettative che hanno i tifosi romani e che in qualche modo questa vicenda sta mettendo invece in discussione. Ora cerchiamo di essere chiari e di raccogliere gli elementi certi, perché altrimenti... Claudio Gattieri lo è stato certamente, perché il titolo al suo articolo era "L'americano sconosciuto negli USA", insomma, era... Mi sembrava abbastanza, sì, la confusione grande. Altri giornali oggi annunciano la data della firma, alcuni il 13, altri il 15 aprile. E quel che è certo è che si doveva chiudere questa trattativa in questa settimana. L'arrivo e lo sbarco a Fiumicino di Di Benedetto è stato accolto come quella quasi di un messia che doveva salvare, sì, la Roma. Improvvisamente si è arrivati a dire invece che, sia pur con un accordo sostanzialmente raggiunto tra le parti, se ne riparlerà tra 15-20 giorni a Boston. Già questo lascia in qualche modo perplessi. Sì, anche perché è una trattativa che dura da molto tempo. Io mi fermerei e partirei dal comunicato di due sere fa che Unicredit quasi a mezzanotte ha rilasciato, anche perché, è bene ricordarlo, si deve parlare di questa vicenda con grande cautela. La Roma è quotata in borsa e dunque è bene che le informazioni che filtrano siano, diciamo, quelle poche ma corrette. Quello che mi ha lasciato perplesso, dicevo, è il fatto che nel comunicato di Unicredit si dica che si aspetta di acquisire le garanzie che Thomas Di Benedetto e la sua cordata dovranno fornire per diciamo corroborare gli accordi verbalmente raggiunti nelle riunioni di questi giorni. Ora, io credo che, visto che c'è stato già una preselezione delle candidature, il riconoscimento di una trattativa privata di 30 giorni più 15, si è arrivati appunto a, sì, questa settimana di aprile, immagino che delle garanzie siano state già prestate. Ora non si capisce queste garanzie, se sono garanzie ulteriori o se in qualche modo quelle prestate, già prestate, siano state vagliate e magari considerate poco efficaci. Diciamo, l'assicurazione sulla vita di questa trattativa è l'impegno di Unicredit, dei vertici di Unicredit, sicuramente insomma, hanno tutte le competenze professionali e tecniche per evitare che questa trattativa si risolva in una bolla di sapone. Io mi auguro che non si venda la Roma perché debba essere venduta la Roma. La Roma merita una società seria alle spalle, merita un serio progetto industriale. Se la cordata che sta intorno a Di Benedetto è seria e può dare questo futuro che tutti i tifosi della Roma si augurano luminoso per la Magica, è bene che, insomma, Unicredit concluda questa trattativa e nessuno è pregiudizialmente contro. È chiaro però che, per come si è evoluta negli ultimi giorni, qualche dubbio ulteriore nei cronisti, almeno, che si occupano di queste vicende, l'ha suscitato, come lo suscitava magari già qualche mese fa. Certo, inevitabile, direi. Allora, passiamo a questo focus che tu stesso hai proposto su i vari in ordine in classifica, su Milan, Inter, Napoli e Udinese, e in particolare sulle voci di bilancio più significative in prospettiva di fair play finanziario, cioè come stanno economicamente queste quattro, quanto pesano gli ingaggi sul fatturato, che è il rapporto chiave oggi per valutare le condizioni vere di un bilancio, e dunque quali sono le prospettive per questi club anche da un punto di vista stadio, che è un altro. Quello che accadrà sul campo tra sabato e domenica sarà ovviamente cruciale per il futuro immediato dal punto di vista sportivo di questi club, che simpaticamente abbiamo chiamato Big Four, il nuovo Big Four del calcio italiano, sperando che non si offendano le altre società che attualmente non si contendono i posti in Champions League. Perché vedi, Gigi, secondo me, al di là di chi vincerà lo scudetto, che è la cosa che interessa di più ai tifosi, certo, adesso per un mese e mezzo di questo si parlerà, ma io credo che chi i conti poi li fa all'interno di questi club abbia un solo obiettivo, al di là di arrivare i primi, ma cioè quello di centrare i primi tre posti. È quello, diciamo, il traguardo fondamentale per poter progettare il futuro, per poter approcciare in maniera costruttiva la prossima campagna acquisti e dunque per avviarsi verso diciamo, gli impegni che impongono i criteri del fair play finanziario con maggiore serenità. Attualmente, per arrivare alle risposte, Inter e Milan, che sono le prime a scendere in campo, sono anche le prime che dovranno impegnarsi molto per adeguarsi ai criteri del fair play finanziario. Gli ultimi fatturati di Inter e Milan sono in crescita, in particolare quello dell'Inter perché viene dalla stagione del triplete, ma paradossalmente, o forse diciamo in maniera concatenata, sono aumentati anche i costi. Ora, andando con ordine, i criteri del fair play finanziario ci dicono che le società dovranno come dire, avere bilanci in pareggio o tendenzialmente in pareggio, cioè coprire le proprie spese con i ricavi. Ecco, l'Inter negli ultimi tre anni ha avuto un rosso di gestione di meno 148 nel 2008, meno 150 nel 2009, meno 70 nel 2010, paradossalmente l'anno della grande vittoria, quindi è sostanzialmente fuori. Ovviamente i dirigenti finanziari dell'Inter lo sanno, hanno iniziato una campagna, diciamo, di riduzione dei costi. Molti tifosi dell'Inter si ricordano gli acquisti diciamo di giovani in prospettiva della scorsa estate. Si è fatto invece di più questo inverno anche per anticipare il fair play finanziario, perché sarà la prossima campagna acquisti quella che sarà la prima ad essere monitorata. Quindi tu ci stai dicendo che l'Inter ha fatto un po' come ha fatto il Chelsea, come ha fatto altre società in Europa, e anche... cioè visto che era l'estate poi, e in questo senso io ho letto un'intervista tua a Paolillo di qualche tempo fa e che mi pare anticipasse proprio questo concetto. Esattamente, Paolillo ha detto che non saranno fatti acquisti la prossima estate. Ma quindi quando noi continuiamo a leggere per esempio anche sulle copertine dei quotidiani sportivi come oggi, no? Che è Ganso, che mi sembra il nuovo oggetto del desiderio comune, per esempio, intanto per cominciare alle milanesi, Ganso viene via per la modica clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Allora qui c'è qualcosa che non torna, cioè o qualcuno ha raccontato qualche balla a te, oppure qualcun altro, come dire, Platini è stato rieletto perché ha fatto una battaglia sul fair play finanziario che dovrà garantire una maggiore competizione a livello europeo e non tornerà indietro, quindi quegli acquisti, quelle somme attualmente anche le squadre top in Italia non possono permetterselo, a meno che non vendano altri giocatori. Ecco, questa potrebbe essere una chiave. Lo stesso Milan, di cui non disponiamo l'ultimo bilancio perché l'assemblea si terrà a fine aprile e Milan chiude il bilancio a fine anno e non al 30 giugno, almeno per quest'anno, poi dovrà presentare una semestrale al 30 giugno perché quello sarà il riferimento al 30 giugno 2012. In ogni caso anche il Milan ha bilanci in rosso, anche se in rosso che si è ridotto, l'ultimo disponibile di circa meno 20 milioni e debiti che per entrambi le milanesi sono oltre 400 milioni di euro, oltre 460 per il Milan, oltre 430 per l'Inter negli ultimi bilanci, insomma. Quindi 460, scusami, per entrambe, sì. Erano 431 dell'Inter. Insomma, numeri che da soli dimostrano come Inter e Milan dovranno assolutamente ridimensionare le proprie prospettive, anche perché l'unica voce che può, come dire, incrementare i ricavi, perché Inter e Milan hanno già diritti TV che sono al massimo livello, cioè voglio dire, sono già squadre top in Europa, i diritti TV che acquisiscono in Italia e nell'ambito delle competizioni internazionali sono non già possono al top. Andare oltre. L'unica voce importante sarebbe quella dello stadio, ma qualche mese fa Inter e Milan hanno firmato una nuova convenzione con il Comune di Milano e quindi fino al 2016 saranno comunque vincolate a giocare a San Siro. Comunque dovranno pagare diciamo il canone, che è di 4 milioni all'anno per ciascuna squadra. Canone che tra l'altro non può essere scomputato dai costi del fair play finanziario, per cui questa è una battaglia, insomma, che Inter e Milan stanno cercando di fare per farsi riconoscere questo sconto, insomma, dalla UEFA. Dovrà essere rifatto San Siro, perché il Milan e Inter stanno, diciamo, hanno creato un'alleanza con il Comune perché San Siro possa ospitare con l'Expo 2015 la finale della Champions League. Però è chiaro che per i prossimi 4 anni di stadi nuovi, di stadi di proprietà, almeno a Milano non se ne parla. Sì, si tratta poi di vedere se si parlerà dell'Expo, ma questo è un altro discorso, è un altro capitolo ancora. Allora, tu ci hai detto in altre parole che Inter e Milan, adesso sto estremizzando e esagerando, insomma, che Inter e Milan faranno bene a giocarsi questo scudetto perché il successivo non è, nel successivo non è detto che saranno così protagonisti, o meglio, non potranno rafforzarsi in maniera così significativa come forse invece potranno fare altri club di cui ci parli dopo l'intervallo, chiedendo un po' di pazienza a un ascoltatore che è già collegato da Lodi. Intervallo per i mercati. Un messaggio che arriva da Lucca, firmato Gaetano. Il titolo del Sole 24 Ore non è certamente a sproposito. A Lucca arrivò uno pseudo imprenditore siriano che acquistò lucchese. Disse di essere un cardiochirurgo e di avere varie attività. Spese tantissimo per far nulla e la lucchese fallì. Alla fine si è scoperto che non era medico, che aveva attività quali il traffico d'armi. Vabbè, adesso è vero, è una storia, Marco, è purtroppo una storia vera che è toccata la lucchese. Non, questo non significa che altrettanto avventuriero debba essere l'uomo di cui si sta parlando in questi giorni a Roma, ma che, insomma, qualche diffidenza, qualche cautela mi pare che se la sia meritata, no? Se non altro l'iter che tu ci hai ricostruito. Io ricordo anche un Tim Burton a Bari, i baresi se lo ricordano, tanto per citarne uno. A Torino Sponda Granata hanno fatto una collezione addirittura, no? in parecchi anni, e il clou è stato uno che, se non ricordo male, si chiamava Ciuccariello e che per un mese e mezzo almeno fu sponsorizzato oltretutto dal principale quotidiano cittadino. Ezio da Lodi, buongiorno. Salve Garanzini, buongiorno. Semplicemente vorrei riproporre con altre parole esattamente quello che il suo commentatore ha detto, con parole felpate ma molto appuntite, e cioè non vorrei per la piazza di Roma soprattutto che Unicredit, che si è esposta molto sia come ente sia come persone che hanno portato avanti la trattativa, si stia mangiando le mani, ma sia costretto ad andare avanti per non poter far marcia indietro ormai arrivati a questo punto. Tutto qui. Grazie Ezio. Beh, il problema, diciamo, non sta a noi, voglio dire, appurarlo, nel senso che noi da osservatori, da analisti, ci basiamo su sui dati e cerchiamo in qualche modo di dare una lettura. Questa potrebbe esserne una. Peraltro io voglio ricordare l'esperienza inglese degli acquirenti americani, relativamente al Manchester e al Liverpool. Lì sono arrivati, hanno fatto un'operazione di leverage buyout, mi si scusi il latinismo, di acquisto della società praticamente a debito, facendosi prestare i soldi dalle banche e poi dando in garanzia lo stesso club, con il risultato che magari dal punto di vista sportivo Manchester e Liverpool dei successi li hanno ottenuti, ma si sono indebitati. In Manchester ora veleggia, credo, tra gli 800 e 900 milioni di debiti. Pazzesco. E qualche giorno fa è arrivata un'offerta dalla famiglia reale del Qatar, che non manca mai, di circa 1,7 miliardi per acquistare il club. Comunque è conosciutissimo, un marchio enormemente sviluppabile il Manchester, e quindi questo è giustificabile. Voglio dire, mi auguro che il tentativo di questa cordata non sia stato quello di fare un'operazione simile in Italia, cioè di farsi prestare i soldi da Unicredit per comprare la Roma, e che giustamente i vertici di Unicredit si stiano, come dire, allarmando un po'. In ogni caso, la nuova società dovrebbe essere compartecipata, cioè il 60% agli americani, 40% a Unicredit, che poi dovrebbe e potrebbe cedere un'ulteriore percentuale a un socio italiano, per cui la presenza di Unicredit qualche garanzia in più dovrebbe dare. Certamente la dovrebbe dare. Torniamo a questa lotta a scudetto vista in ottica di bilanci più o meno virtuosi. Allora, non sono virtuosi i bilanci rosso-nerazzurri, no? Con 460 milioni di rosso dall'uno di debiti, il rosso, debiti, il di, rosso debiti, di gestione, debiti, quello che vale per il fair play finanziario è basso, insomma, siamo su questi livelli comunque. Ecco, comunque di debiti 4,60 a testa, quindi anche lì il segno X potrebbe essere cosa. Vediamo come vanno le cose invece dalle parti di Napoli e di Udine. Beh, sicuramente il Napoli ha bilanci in attivo gli ultimi 4 anni, che poi sono quelli della rinascita del club, sono stati chiusi sempre in attivo. L'ultimo bilancio è di poche migliaia di euro rispetto ai 10 milioni del 2009, ma in ogni caso non è in attivo. Non è in rosso, insomma, il bilancio. L'Udinese invece ha chiuso il bilancio 2010 con meno 7 milioni, ma aveva chiuso quelli precedenti in cifra positiva di 7 milioni, 8 milioni, per cui si tratta di società che hanno una gestione molto, molto sana. E questo è un dato che si evince anche dalla percentuale, cioè quanto pesano gli ingaggi dei calciatori rispetto al fatturato dei club. E ora, mentre l'Inter si viaggia oltre a circa il 90%, cioè il fatturato di 250 milioni, e nell'ultima stagione, quella vincente, il costo del lavoro è stato di circa 230 milioni, perché sono pesati anche i premi, circa 50 milioni di premi pagati per le grandi vittorie che la squadra nerazzurra ha ottenuto, ma che a Putamoratti sono costati. Poi ti faccio un inciso velocissimo, queste non sono novità, il Verona che vinse lo scudetto nell'85, e quindi stiamo parlando di una società di provincia, era una società sorpresa, non c'erano certamente gli Eto'o e i Fenoni, ma c'erano dei giocatori i cui ingaggi e i cui lievitarono oltre il premio scudetto. Il Verona cominciò a fallire o quasi a fallire dall'86 in avanti, dovendo adeguare tutti i contratti. Il paradosso che dicevo prima è quello: se andiamo a chiedere magari a Moratti, a Galliani o De Laurentiis, magari, come dire, sarebbero più contenti di arrivare secondo o terzi per pagare meno premi che di vincere lo scudetto, insomma. Ora, da quel punto di vista lì sì, certo, poi è un paradosso, ma dal punto di vista strettamente finanziario certamente sì. Altre tre cifre significative in quest'ottica: il Milan è oltre il 70% in questo rapporto, quindi Inter 90, Milan 70, Milan oltre 70. L'Udinese invece circa il 60% rispetto al fatturato paga in stipendi, e il Napoli invece siamo intorno al 30-40%. Come 30-40%? Cioè, il costo del lavoro paga poco il Napoli di ingaggi, ha adottato una politica di sobrietà. Sono molti di questi contratti, diciamo, rinnovati, comunque partono dalla Serie B o dalla Serie C. Penso per esempio al contratto di Santa Croce, che dovrà essere ora rinnovato, ma guadagna Santa Croce intorno a 250.000 euro all'anno, insomma quasi un contratto da Serie B. In ogni caso sono cifre che ci fanno capire come i margini di crescita di realtà come Udinese e Napoli sono molto importanti, fermo restando però che si parte da una situazione di fatturato molto bassa. Cioè Napoli ha un fatturato di intorno ai 100-110 milioni raggiunto lo scorso anno, contro gli oltre 250 milioni di Inter e Milan, quindi è metà della forza. Però è chiaro che Napoli non ha mai partecipato alla Champions League, e dunque quei 30-40 milioni in più che arriverebbero semplicemente partecipando al girone iniziale, quindi alle prime sei partite, garantirebbero a Napoli la possibilità di aumentare di molto diciamo il livello degli ingaggi, di molto, compatibilmente appunto ai 30-40 milioni. Ma chiaro che Cavani, Hamsik e Lavezzi li tieni se riesce ad alzare ora gli ingaggi, a salire oltre quella soglia dei 2 milioni, che è il tetto massimo che De Laurentiis per ora riconosce. Quindi è del Napoli la situazione più virtuosa attualmente dal punto di vista dei bilanci. In quest'ottica. E sono numeri, non è l'accento. Sono numeri in questo momento, sono uscito fuori dalla mia da dimensione e dal bandierone azzurro, e questi sono numeri. Sono i numeri. Un ultimo punto, se ho ancora qualche secondo da dedicare, certo, a questo tema, riguarda lo stadio. L'Udinese non costruirà il proprio stadio, ma ha avviato una trattativa quasi conclusa con le autorità locali per rifare lo stadio, che resterà del comune ma sarà in gestione per molti anni la società dei Pozzo. Spenderà circa 25 milioni di euro per ristrutturare il Friuli secondo il modello inglese, quindi toglierà la pista d'atletica, ne abbiamo forse parlato anche qui, una struttura più ricettiva anche dal punto di vista della ristorazione. L'unica cosa che forse stona per i Pozzo, se posso permettermi di dirlo, è il fatto che il 98% dell'Udinese appartenga a una società che ha sede in Lussemburgo, ed è una nota che un po' stona in questa isola felice del calcio friulano. Forse questo aspetto tenderei a rivederlo se fossi nei Pozzo. Senti, ci sono due ascoltatori, no tanti, ma insomma due, tanto per cominciare, che vogliono intervenire. Prima però Simone da Padova domanda, molto interessante questa discussione, grazie, anche perché da questa discussione, caro Simone, si evincerebbe che, lo ripeto, Milan e Inter o si leva la voglia quest'anno, oppure il futuro del Napoli / dell'Udinese / non so, della Juventus, che avrà il suo stadio, che avrà il suo stadio, che quindi avrà ben altri introiti, anche se ha tutte quelle con proprietà quello è un macigno, ecco, da risolvere, eccetera. Però domanda Simone da Padova: a fronte di bilanci positivi di Napoli Udinese, come sono i debiti? Beh, i debiti il Napoli sono cresciuti da 55 a 91 milioni, quindi l'indebitamento, quello che è scritto alla voce dello stato patrimoniale, perché qui è bene essere dei ragionieri, poi gli analisti finanziari fanno un altro lavoro, noi ci atteniamo alla pura ragioneria. L'Udinese ha circa 85 un'ottantina, 90 milioni di debiti, però si tratta di debiti in qualche modo, insomma, che non preoccupanti, nel senso che sono fisiologici. Il Napoli, perché ha fatto una campagna di potenziamento negli ultimi anni e quindi sono cresciuti in quest'ottica. L'Udinese, perché sappiamo investe sui giovani, acquista tanti giovani talenti e li fa fruttare, perché l'Udinese in soli due anni ha avuto 50 milioni di plusvalenze da calciomercato, e si appresta, se tutto va normale, a raddoppiarli quest'anno con Sanchez, e non solo Sanchez. Nicola, chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo approfittare per fare questa domanda. Ma potrebbe succedere, perché il fair play finanziario riguarda solo per le squadre che partecipano alle coppe europee, cioè, nel senso, voglio dire questo, una squadra potrebbe indebitarsi per vincere il campionato e poi non poter partecipare alle coppe europee? Assolutamente sì, però sarebbe sconveniente, perché gli introiti che derivano dalla Champions League o dalla futura Europa League, che dovrà essere in qualche modo riorganizzata, sono quelli che permettono di avere il salto di qualità, quindi sarebbe controproducente. Si potrebbe vincere un anno, ma poi, restando fuori dalle competizioni internazionali, si sarebbe destinati al declino. Sendo le squadre italiane, purtroppo ho paura che succederà anche questo. Grazie, vi ascolto per radio. Grazie a lei Nicola. Antonio dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno dottor Bellinato. Volevo fare una domanda e una considerazione che lei girerà al dottor Bellinato. Innanzitutto, quanto deve pagare la cordata di Benedetto alla Roma, cioè in soldoni, milioni di euro, per acquisire il 60% mi pare della Roma? E poi la considerazione è questa, magari un po' estremizzata: se la cordata di Benedetto compra la Roma facendosi prestare i soldi da Unicredit, ho pensato questo, insomma, è come se io andassi al supermercato e prima di entrare chiedo a una qualsiasi cassiera di prestarmi 100 euro per fare la spesa. Vi ascolto per radio e grazie. L'esempio è calzante ed è quello che è successo e succede non solo nel mondo del calcio, ma dell'alta finanza, con meccanismi ovviamente più complessi, ma insomma siamo lì. Sulle cifre io ho assunto con me stesso l'impegno di non parlarne, perché ne sono circolate tante, e mi atterrei ai comunicati di Unicredit e di compagnia Italpetroli. Di fatto si sa che verrà costituita una nuova società italiana, ripeto, 60% agli americani, che tra l'altro avranno una società nel Delaware, che è uno stato americano, paradiso fiscale, dove tasse non se ne pagano. È tutto lecito, però è già un segnale di come si intenda impostare questa trattativa. Il resto, il 40%, Unicredit, che dovrà poi cederlo eventualmente a un socio italiano. Si è anche detto che c'è bisogno di ripianare i debiti, sono circa 40 milioni quelli che la Roma sta maturando in questa gestione. Purtroppo la Roma potrebbe non andare in Champions League e quindi verrebbe meno questo canale di introiti, per cui è stato detto che le parti, cioè Unicredit e la struttura americana, dovrebbero in qualche modo destinare una quota importante al rafforzamento della squadra, ma cifre non ne sono state fatte ufficiali, quindi diciamo restiamo a questi dati e almeno facciamo chiarezza su questo. Prontamente rimessosi dall'influenza, ecco a voi, riecco a voi Nicola Filippone con la sua rubrica dedicata alla data del giorno, a un evento sportivo verificatosi in questo caso in un 31 marzo. Sembra ieri. 31 marzo 1973. A Marassi, l'Italia di Valcareggi batte per 5-0 il Lussemburgo, in un incontro valido per la qualificazione alla fase finale dei mondiali, che si sarebbe disputata l'anno successivo in Germania. A trascinare gli azzurri alla goleada è il solito Gigi Riva, autore di ben 4 reti. Altro protagonista del match di Marassi è il debuttante Paolino Pulici, che subentra a fine primo tempo all'infortunato Anastasi. L'attaccante del Torino non si lascia tradire dall'emozione dell'esordiente. Non va a segno, ma gioca in modo convincente e dà a Rivera l'assist del 3-0. La sua avventura in nazionale, però, non sarà particolarmente fortunata. L'idolo dei tifosi granata, in maglia azzurra, metterà insieme 19 presenze con 5 reti e nessuna apparizione ai mondiali, pur essendo stato convocato sia per Germania 74 che per Argentina 78. Beh sì, effettivamente è un trattamento un po' beffardo quello che toccò a Paolino Pulici. Ci sono altri ascoltatori in attesa, però io a Marco Bellinazzo volevo chiedere, non a te certamente, ma insomma, si parla di diritti televisivi, la definizione dei bacini d'utenza, che significa ripartizione di milioni e milioni, direbbe, avrebbe detto il maestro Biscardi, di quattrini in ballo dunque, ma non riescono a mettersi d'accordo perché stanno continuando a cercare nuove società di indagini demoscopiche che sappiano dire esattamente quanti tifosi a questo, quanti tifosi a quell'altro, eccetera. E poi tra Napoli e Lazio mi pare che i due presidenti si siano anche accapigliati. Sì, dire che la discussione è accesa è dire poco, per pare che appunto i presidenti di Napoli e Lazio siano anche quasi venuti alle mani, ma insomma, restando alla procedura per definire come ripartire questi 200 milioni di euro di diritti TV che dovranno essere dati alle squadre più seguite, più amate, si è arrivati a una mezza intesa, nel senso che sono state ora individuate 13 società demoscopiche. Queste 13 società demoscopiche dovranno proporre alla Lega dei quesiti tali da far emergere effettivamente il dato su quanti tifosi amano o seguono una certa squadra, perché anche qui non ci si mette d'accordo. Certo. Dopodiché tra queste 13 verranno scelte le 3 società che entro la fine dell'estate dovranno finalmente indicare le percentuali di ripartizione, quindi almeno chiudere questo capitolo. Non lo faranno gratis, immagino, però queste società. Anzi, credo che siano indagini costose, quindi una pre-indagine che vale per 13 dunque, no? Se più un'indagine che vale per 3, almeno un paio di milioni, se non qualcosa in più se ne andranno, insomma. Quindi, e potevano accontentare la Lega Pro, che chiede 2-3 milioni in più, perché anche sulla parte di mutualità che va fuori da quella cifra, la Lega Pro sta litigando, ha presentato un ricorso, come abbiamo raccontato, su cui si dovrà decidere, insomma. Uno scenario che è il meno positivo possibile, in considerazione del fatto che finita questa stagione si comincerà a discutere del nuovo contratto dei diritti TV, quello grosso, quello serio, quello e quindi vero. vedremo quello che succederà, insomma. Roberto Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo riportarmi al discorso dell'americano che vuol comprare la Roma. Noi a Bologna abbiamo avuto già anche noi una nostra, adesso che il Bologna mi sembra messo meglio, ci si può anche ridere sopra. Abbiamo avuto un paio d'anni fa un certo mister Tacopina che si è presentato e nessuno lo conosceva e ha fatto un po' il fenomeno, e poi alla fine si è finito tutti in una bolla di sapone. No? Io spero che Unicredit abbia fatto bene indagini, è il loro lavoro, era l'unica. A Bologna abbiamo avuto mister Tacopina. Tutto qua. Grazie. Ogni città e ogni squadra ha il suo americano, insomma. Ha iniziato Totò a trattare con gli americani. Speriamo che vada a miglior fine questa trattativa. Leonardo, Firenze, buongiorno. Sì, buonasera. Senta, non so se è già stato, qualcuno l'ha già chiesto, ma ho una curiosità che mi sembra di aver letto o sentito. Fair play finanziario. Mi sembrava di aver capito, ho letto, ripeto, che non vale per le due società spagnole, Real Madrid e Barcellona, perché sono azionariato popolare. Mi risulta? Grazie per ascoltare. Grazie a lei. Beh, non è che non vale, vale anche per Real Madrid e Barcellona. Lì il discorso ora è molto complesso. Ci sono, come dire, dei criteri di inquadramento degli aumenti di capitale diversi tra Italia e Spagna, nel senso che, mi spiego meglio, i contributi che danno ogni anno Real Madrid e Barcellona, a Real Madrid e Barcellona i soci e gli associati, che sono migliaia e migliaia, non vengono considerati sostanzialmente aumenti di capitale, quindi possono foraggiare il club, mentre l'aumento di capitale versato dal Moratti di turno, per intenderci, viene considerato invece illegittimo dalla UEFA, sarà considerato illegittimo, e dunque c'è questa disparità di trattamento tra squadre spagnole e squadre italiane, di cui si sta discutendo a Niona, alla sede della UEFA, ma per il momento resta questa disparità di trattamento. Però anche Real Madrid e Barcellona dovranno fare i conti col fair play. Sì, resta perché c'è questa differenza strutturale, no? di costruzione societaria, quindi in realtà non è un favore che viene fatto, è che avendo quella struttura l'UEFA sta pensando a come adeguare, a come unificare. Sì, di fatto l'UEFA non può entrare, non ha competenza sulle legislazioni nazionali. Ecco. Certo. Siamo arrivati alla Liga. La Liga ha scongiurato uno sciopero grazie a un intervento del giudice, niente meno, se no saltava questa giornata. Sì, che... anche lì il problema vero è il prossimo accordo sui diritti TV, e quindi ora si sta litigando su un aspetto secondario, cioè la trasmissione della partita in chiaro il sabato. Si sono spaccati i club, il Villarreal ha guidato al 6 club che si erano opposti al Madrid e Barcellona, ha dato ragione a loro il giudice, quindi si giocherà regolarmente la Liga, ma anche lì ogni mondo e paese si sta litigando appunto sui diritti TV. Certo che quella della rappresentanza è una discreta gatta, bisogna far affidarsi, intendo, no? di questi istituti demoscopici, poi, perché nel senso che noi siamo abituati che ogni tanto ci prendono per le elezioni, oppure invece che sbagliano clamorosamente, ma lì il danno dura poche ore ed è un danno informativo per l'utente, ma in questo caso invece se si sbagliassero a rilevare, che ne so, troppi tifosi di una squadra e troppo pochi di un'altra, diventa un danno patrimoniale. Anche perché ballano decine di milioni a seconda di come si pone la domanda. Si sta litigando, Gigi, su come porre la domanda. Sei tifoso di questa squadra oppure ti piace questa squadra? Le piccole squadre, per esempio, ritengono che molti tifosi seguano Inter, Milano, Juventus, ma seguano anche come seconda squadra il club della propria città, e certo, quindi vogliono in qualche modo che sia rilevato anche questo dato. E ripeto, ballano decine di milioni di euro. Esatto. Siccome dalla ripartizione collettiva con la legge Melandri dei diritti TV hanno perso soprattutto le grandi squadre Inter, Milan e Juve, in tre hanno perso quasi 50 milioni rispetto alla vendita individuale dei diritti televisivi, prima. È chiaro che insomma ora stanno cercando almeno di parare il colpo e di ridurre diciamo i soldi che invece potrebbero andare alle altre squadre. Parare il colpo, hai detto, e in effetti per un attimo ho temuto peggio. Andrea da Genova, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Io vorrei solo fare una considerazione sul fatto del leverage buyout. Il leverage buyout non è che sia una bestemmia, il problema è che bisogna avere gli utili poi, garantirli per ripagare il debito. E questo è il vero problema. Non tanto se uno si indebita per comprare una società, il fatto è che come ripaga i debiti se la società è costantemente in perdita. Questo è il punto fondamentale, a mio avviso. Ci sono state delle operazioni fatte a livello internazionale attraverso Andrea, grazie. Devo stringere perché stiamo per chiudere, ma vedo che Berinato fluisce dello strumento giuridico, ma dell'uso che se ne fa, è chiaro. Applicato al calcio, dove gli utili se ne vedono poco. Quindi pochi, ha perfettamente ragione il nostro... Sì. Il nostro amico Andrea da Genova. Grazie allora a Marco Bellinazzo per la sua partecipazione, grazie a Pietro Lacorte in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.